Sì, si sente bene allora. Stai registrando? Vuoi fare delle prove per vedere il volume? Magari è anche provare una voce femminile. Tanto sono tutte donne che dovranno parlare oggi. Sì, così. Anche col microfono, anche col volume del microfono. Questo qua è il numero. Questo dovrebbe essere il numero 78. Sì, questo è il numero 78. Poi c'è il numero 56, che è di là. Quelli là sono spenti. Mi sente sempre in ritardo? No, adesso sto Ah, sentendo mi direttamente da sente. qua. Ah, Infatti perfetto. dovrei spostare la banda Perfetto, e perfetto. poi Allora ragazzi, vi lascio il microfono. vedere cosa fare. In bocca al lupo. No, vabbè, l'introduzione alla radio facciamo vedere. Dopo. Sì, No, non me ne esatto. presentate che siamo in radio. Dai, la faccio io. Farà tu Se mi allora. tenete Sì, il fallo tu, microfono. però aspetta un secondo. Beh, a questo punto, buonasera a tutti, siamo in diretta da Piazza Puntoni, Bologna. Bologna vuol dire un sacco di cose, tra cui Radio Libere, o perlomeno voleva dirle, quindi noi abbiamo provato a riproporre tutto con uno spirito del 2011, non siamo più nel 77, ma nel 2011 e cominciamo le trasmissioni. Il progetto si chiama Aelia Media, potete seguirci da aeliamedia.org oppure andate su Ustream o Ustream, come preferite, .tv e da lì c'è il canale di Aelia Media, appunto, anche lì potete trovarci. Basta che fate la ricerca Aelia Media su Ustream e ci ascoltate direttamente in streaming. E ora vado a introdurre la prima serata, no, anzi, il primo programma della giornata. Buonasera, intanto presentatevi. Allora, io sono Federica Falancia. Io sono Federica Falancia e qui vicino a me c'è anche Linda Rigotti. quest'oggi cominciamo il nostro intrattenimento radio che Babe ha presentato appena adesso con una lettura di favole. Queste favole sono favole raccolte da un nonno bolognese, il nonno di uno di noi. E, ho scelto di leggere una favola che si chiama La streia del Masnadur, ossia La strega del Macero. Questa favola comincia con una frase: La speranza sta sempre lontana come l'orizzonte, poi la trovi. Accanto, venuta da sé, ma non è più lei. Una frase ermetica, criptica. Allora, la strega del Masnadur, quella parte dell'Emilia di nord-ovest, alla quale il Po sembra avere travasato con larghezza terra da pianura della terra migliore, e gli Appennini, tagliandola verso il mare, la chiudono al corso del Rubicone. È notoriamente conosciuta. Terra generosa di frutti e messi, terra felice. Quanto genericamente sopradetto, spalanca immagini di cielo, mare, eccetera. E qui non ne saranno smentite le bellezze. Però non è sempre così. In certi mesi dell'anno il clima può diventare irriconoscibile, se non addirittura molto brutto. Difatti, nei mesi di luglio-agosto, il sole artiglia le spalle dei contadini, spezza le pietre dei calanchi e tramonta, radendo l'orizzonte, quasi cercando refrigerio nel grande fiume. Per contro, da novembre a gennaio e passa, a settimane, settimane fredde che sembrano non abbiano fine, settimane da purgatorio, sature di nebbia ad alta densità, che cancella ogni aspetto reale del paesaggio, inghiotte luci, colori, distanze, afona suoni, trasfigura chiese in ruderi, boschi in ammassi cupi e, nel cattivo dell'inverno, i solchi dei campi arati si intravedono frastagliati da galaverna a sembrare un lembro di banchisa. Al primo far della notte, ogni tronco mozzato o viluppo d'arbusti al bordo delle stradette tra i campi appare all'improvviso, sovvenendo ombre di pirati o socchi, ombre di masnadieri del tempo di 8-9 nonni, or sono, pirati ai quali nessuno voleva pensare, ma nel buio assoluto se ne paventava l'impossibile incontro ad ogni passo. Ciò, come accennato anche per un sottile timore in quel silenzio sordo, che aleggiava gelidi sospiri di fantasmi in attesa di compimenti, sussurrati da tempo. 100 e 100 anni or sono. All'abbuiare di una di quelle sere invernali, Urio Draghetti ritornava da una consegna di foraggio e se ne stava quasi accucciato sul baroccio a cassone a due ruote alte. Al traino un grosso cavallo brado procedeva a passo di strada terrata leggermente innevata e, insensibile a freddo e buio, avanzava con passo sicuro, padrone del romorare sommesso del carro e delle ruote. Ben diretto dal fiuto, che già odorava la sua stalla. Sotto il pianale del carro cigolava una lanterna accesa che a malapena mostrava se stessa. Di ciò Urio Draghetti non si dava pensiero. Era nativo dei luoghi, era giovanazzo, ben messo di corporatura e forse per quel caratteruzzo sbrigativo che aveva e lo schioppo a portata di mano poteva dare alzata di spalle a tutto. Il suo podere non era lontano, quindi il cappellaccio calato sugli occhi, ammantato della capparella. Al momento non pensava a niente di particolare, anche se ad ogni ritorno notturno gli succedeva di fantasticare rimestando ricordi non chiari della sua fanciullezza, della casa del padre, tuttora vecchio proprietario di grandi appezzamenti al suo confine, e ad uno strano colloquio tra padre e nonno, che egli poté ascoltare completamente, ma che aveva lasciato in lui un'incertezza grande come un pagliaio. Incertezza per qualcosa connesso ai suoi luoghi, persone, promesse, forse da saldare. Ad un tratto trasalì. Il traino, ormai a poco dai due altissimi pioppi d'ingresso al suo cortile, e il cavallo, invece di accelerare come sempre verso la svolta, alzò il muso e rallentò il passo come temesse di sbattere ed aspettasse un segno di fermo dal padrone, ma poi, non sentendo tiro di briglie, riprese il passo, mentre Urio gli dette la voce con un «va là» e passò oltre. Il carro aveva iniziato la svolta tra i pioppi, ma Urio Draghetti, come preso da un sospetto mai avuto prima, si voltò di scatto verso dove il cavallo aveva rallentato. Lo sentiva, ne era certo. Ridosso la stradetta c'era qualcosa, o c'era qualcuno. E qui è arrivato Babe. Giunto sotto il porticato deposito, Urio si dette da fare come solito nel posteggiare il carro al fienile ed il cavallo alla stalla. Egli si sforzava di darsi un contegno indifferente, ma sentiva tambureggiare il cuore. Qualcuno aveva atteso il suo ritorno, qualcuno oltre la siepe con quel freddo cane sotto il nevischio nel buio pesto era là. Però, per come era passato, non doveva essere cosa pericolosa, ma non c'erano dubbi, doveva trattarsi di cosa grossa. Prima di buio, il suo bracciante aveva lasciato due lanterne accese fuori, una davanti alla porta della stalla, l'altra davanti alla contigua cascina padronale. Sul piazzale del cortile si vedevano ancora, sotto il fischio nevischio, soltanto le impronte del rientro. Chiuso il portone della stalla, Urio, tenendo ben contro il fianco lo schioppo, secondo la consuetudine sempre carico, si avviò al portone di casa, con voluta lentezza forzando la vista alla base di pioppi. Nulla. S'era accinto a spintonare l'anta. allorché udì percuotere la padella. Una voce di tono grave, di chiara inflessione femminile, chiese: «Tu sei Iurio Draghetti, vero?» «Ci siamo», pensò. «Fatti avanti che ti veda». Qualcosa si mosse a piede il pioppo di destra, una specie di cappuccio indossato da sopra la testa ai piedi di una persona che fece 5 passi avanti, restando ancora non ben distinguibile. «È questa l'ora di venir qui da sconosciuti?» fece Urio con timbro duro. «Al far della notte vengo, del giorno vado», s'udì con tono dispiaciuto. «Siccome qui una stranezza come te non l'ho mai vista, come sai il mio nome? Quando hai detto va là, ho udito la voce di tuo nonno prima, di tuo padre dopo, quando avevano la tua età». A queste ultime parole l'acqua del fosso vicino tagliò più forte. Urio, allibito, comprese nei suoi ricordi non c'era più nebbia. Era dunque possibile. Il passato lontano era ritornato anche per lui. No, non lo voleva così. No, non poteva essere vero. Eppure era lì, forse per regolarizzare accordi presi da 100 anni. Aveva chiuso gli occhi. Quando li riaprì, a 10 passi, vide quasi con ripugnanza la massa dei capelli rossi che coprivano le spalle, e viso di una forma che poteva avere 120 anni. Il mantello era indefinibile, forse aveva zoccoli di legno. Il silenzio tra loro era pesante. Bisognava affrontare la situazione in tutta la sua gravità. Urio stava facendo un pensiero e tentò l'azione da fare. Sostenne lo sguardo delle pupille trapelanti dai capelli e domandò: «Tu sei Streia?» «Lo sono», rispose quella. «Hai amato mio nonno?» «Lo avrei voluto». «Hai amato mio padre?» «Non l'ho potuto». «Potrai amarmi?» «Se lo vorrai». «Che cosa vuoi adesso?» «Sposarti per parola dei presenti». «Quando?» «Prima che faccia giorno». «Pagherai la discendenza?» «Già lo feci, ma la doppierò». «Bisogna parlarne. Entra». «Non posso. Il pentagramma sulla soglia è negativo». Urio aveva così raggiunto quello che voleva, proporre in luogo aperto la discendenza da pagare. Era una perfidia per lui. Confuso dall'apparenza, non tremò. «Questo è il nostro accordo, Streia. Ti sposerò se passerai la notte sopra il tetto, vestita soltanto di un sacco bagnato. Io starò in soffitta e ti farò compagnia. Dammi il sacco e posa la scala ai coppi». E con tristezza aggiunse: «Accetto». Un patto tanto iniquo non si era mai visto fare. Aveva ripreso a nevicare. Poco dopo, in mezzo al cortile, Streia infilò il sacco bagnato, poi fece cadere sotto di sé il mantello, l'unico vestito che aveva. Senza zoccoli salì la scala e sul tetto sedette di fianco del comignolo innevato. Il vento prese a fischiare. Il rugliare dell'acqua era sommesso, forse memorizzava. Passi a me? Ok. Allora vedo di scaldarmi un po' la voce, perché qua in Piazza Puntoni il sole ci ha già superato. È un po' freddo. Proseguo. «È andata», si disse Urio salendo in soffitta. «Andrà avanti poco. Mio nonno e mio padre, per non perdere la dote, l'hanno rimandata lunga, scaricando il prenderla o il lasciare tutto su di me. Per fortuna, la vecchia non è più lì con la testa e domani sarà tutto finito. In questo momento, però, è mia promessa sposa e debbo consolarla. Le griderò qualcosa che le dia speranza». E, alzando la voce, cantilenò: «Vecchierella, che freddo fai, domani mi sposerai?» Non venne risposta e Urio la prese per buona. Tutto andava meglio di quanto temeva. Però quella aveva poc'anzi una voce chiara, direi giovanile, forse non audito, e ripeté più forte: «Vecchierella, che freddo che fai? Domani mi sposerai?» Non risponde, brontolò. Non ho bisogno di sgolarmi e star sveglio. Crucciato si sdraiò per prender sonno e si coprì di un cantone di paglia. Stava ritornandogli a mente la successione di domande dette in modo da portare Streia ad accettare l'accordo. Le risposte erano state pronte, chiare, volte ad un pensiero generoso. Ma come? Si interrogava Urio. Possibile che ella non abbia intuito l'inganno, forse mortale, che l'attende? Il tempo l'ha resa tanto sprovveduta? Streia era salita per la scala, leggera come una ragazzetta. C'era qualcosa di anormale in quella centenaria. Certamente quando nonno la conobbe, quindi quindicenne come ella era allora, doveva essere molto bella. Peccato non lo sia più. Che tristezza. Attendere una sposa promessa e riceverla con cattiveria, con crudeltà. Mai stata tale in me. Da porla al freddo di una notte come questa e cinicamente pensare di consolarla deridendo il suo tormento. Ma quale male ci ha fatto? Ha portato a noi la sua dote, con amore, ci ha arricchiti tutti. Mi ha atteso per più di 100 anni, ma com'è stato possibile tutto questo? Ed io come ho potuto tanto? Povera promessa sposa, come ti vorrei felice e come vorrei lacrime per i miei occhi. Un singulto gli percosse il petto e quasi gridò. No, non restare sul tetto, scendi. Era balzato in piedi, ma non sapeva se sognava ancora. Era sveglio, qualcosa dell'alba schiariva in cortile. Le imposte esterne erano socchiuse, dunque la notte era passata. Ed egli certamente aveva dormito quella peggiore, non riusciva a pensare come qualificare se stesso. Conosceva la legge, sentiva la colpa e doveva affrontare un mattino come quello. Spalancò le imposte, il cielo era chiaro ad oriente, il cortile innevato. A fatica rivide il mucchietto del mantello e degli zoccoli abbandonati notte avanti. E qualcosa di scuro e rigido di gelo oltre la metà del cortile. Era abbandonato là, dove finiva la corte e cominciava il macero. Con il cuore in gola si ricordò di quella, sul tetto, e gli occhi caddero sulla scala vicina, innevata, sempre allo stesso posto. Lentamente albeggiava, forzando la vista sui peli, si intravedero le impronte dei piedi nudi. Possibile che Streia avesse udito il suo richiamo e notte fosse scesa? No, la neve cadente avrebbe cancellato tutto. Non c'erano dubbi, ella era scesa da poco. In quel momento Urio sentì un grande scoramento. Il tempo lavorava contro di lui, doveva agire, ma capiva la sua impotenza, doveva ingoiare con i suoi occhi la conclusione dei suoi errori. Era ormai inevitabile. Scese intorbidito al piano terra ed aprì con tremore l'anta del portone. Vide orme e laggiù al macero, in fondo al cortile ancora scuro, spiccava più bianca della neve la figura di una ragazza nuda. In piedi sul lavatoio si acconciava il casco dei capelli rossi. Era snella, giovane, bellissima. Urio tremava per il freddo e l'emozione, incapace di avanzare, protese un braccio gridando: lo so chi sei, non te ne andare. Questa è la tua casa, resta con me. La voce di Streia, sempre grave e mesta, gli rispose: è la legge, di notte vengo, di giorno vado. Ma dove vai? Urlò Urio frenetico. A cercare una veste. Quella che mi hai dato ieri sera non è bianca. Io sono vergine. Forse tornerò prima che sorga il sole. Ma forse, mio sposo tanto atteso, ti perderò. Urio, disperato, corse per trattenerla, per stringere almeno una volta la sua mano, ma non fece in tempo. Streia scese in acqua, si distese e rapidamente scomparve. La massa dei capelli fu l'ultimo alone rosso che lentamente si dissolse. Urio si era gettato in ginocchio con le mani sul capo ed il viso nella neve. Quando si rialzò, l'aurora precedette di poco il sole. L'acqua, dicono i barcaioli, racconta che Urio Draghetti sosta tutte le mattine al bordo del Macero. A primavera sorride a miriadi di pesci rossi. Questa favola è finita. Questa favola, sì, è finita. E sono arrivate un po' di persone in piazza, vediamo che cominciano ad avvicinarsi. È arrivata anche Costanza Savini. E... allora forse potremmo fare iniziare lei a leggere la prossima favola. Io leggerei Il gatto mammone, se ti piace, altrimenti potremmo leggere altri titoli. Beh, Costanza Intanto... Savini è una scrittrice, quindi magari è più... magari conosce già qualcosa di queste favole. Chissà. Vado. Vai, vai, Costanza. Una volta, in tante case di campagna, le famiglie che non avevano campi, boschi, orti, vivevano molto poveramente. Nell'interno delle abitazioni era tanto se c'era il focolare, la tavola con le panche per il giorno e per la notte, dei cassettoni che facevano da letto e trattenevano sacchi pieni di foglie secche, usati come materassi. Nei villaggi tutti prendevano l'acqua dal pozzo oppure da qualche fontanella sgorgante dai colli. Di sera poche famiglie accendevano le candele per l'illuminazione. Ai più poveri bastava la fiamma nel camino. Quando faceva freddo gli indumenti erano pochi e grossolani. I zoccoli di legno si portavano a piedi nudi d'estate e d'inverno. Però il cielo era terso, il silenzio profondo, il pane buono. In una casetta isolata dall'unico paesuzzo della valletta abitava una donna con le sue due fanciulline che l'aiutavano nel misero lavoro che aveva per vivere. Lavare e stirare indumenti e vestiti per alcune famiglie signorette che di notte tenevano una fiaccola accesa davanti casa ed un battaglio sul portone. La madre del nostro racconto era contenta delle sue figlioline, pur con qualche piccola preoccupazione della loro diversità nei modi di stare e di fare. Quella più grandicella era bruna, quieta, molto servizievole. La seconda era bionda, allegra, un poco svogliatella ed ancor meno ubbidiente. Le due quindi avevano qualche bisticcio, ma si volevano bene e questo sentimento faceva loro fare quasi sempre ogni cosa insieme. Anche in un desiderio, mai confidato alla madre, desiderio al quale esse pensavano senza invidia ogni qualvolta vedevano una coetanea più fortunata di loro con bei vestiti. Da ciò sospiravano. Noi siamo una bruna come la sera e l'altra bionda come il giorno. Saremmo certamente belle con la sottana lunga fino ai piedi, una d'argento come la luna, l'altra d'oro come il sole, e sospiravano. Una mattina la madre disse: «Ho bisogno che andiate alla riva del torrentello a lavare questo vestito con questo sapone». «Io non posso, devo pettinarmi», cinguettò la minore, «e poi non ho tempo». La maggiore non parlò, prese un canestro, introdusse abito, sapone e si avviò alla pietra del torrente. Il giorno era bello, ma la bruna era un poco triste. Le dispiaceva che la sorella bionda non fosse con lei a farle compagnia. Il lavoro sarebbe stato meno faticoso e per la strada i due in due si cammina un poco più sicure. Era già in vista della pietra che faceva da lavatoio quando da un sentiero di un campo di costa alla stradetta venne fuori a piccoli passi una personcina grigia, curva, con in capo un fazzoletto giallo strucito. Chiese: «Giovinetta bella, ti prego, se vai al torrentello, lavami questo cencio giallo. Vedi, è molto sporco, ma io non riesco a lavarlo da sola. Sono troppo vecchia, non arrivo all'acqua. Se lo facessi, cadrei nella corrente. La fanciulla, un poco meravigliata, rispose sorridendo: attendimi all'ombra, tra poco sarò di ritorno. E andò. Il lavoro della Bruna cominciò con il vestito e sciacqua, insapone, sbatti e sbatti, e dalli, ripetendo sempre sciacqua, insapone, sbatti. Il vestito finalmente fu posto ad asciugare sopra un masso ben scaldato dal sole. Poi Bruna prese a lavare allo stesso modo il fazzoletto giallo, ma ahimè, il sapone le scivolò di mano e piombò nell'acqua corrente. Per ritrovarlo subito, la Bruna non disse una parola, saltò nel torrente, introducendo le mani alla ricerca tra i sassi del fondo. Purtroppo, attorno a lei non lo trovò. Con il cuore in gola, che batteva forte, avanzò nell'acqua fino alla cintola, cercando sempre, ma nulla. Senza rendersi conto di quello che faceva, Bruna avanzò ancora e mise la testa sott'acqua per vedere il suo prezioso sapone, quando, confusamente, intuì una cosa incredibile. Era finita in un cerchio magico. Si accorse che, dov'era lei, l'acqua scorreva un poco più alta sopra la sua testa, pari come una specie di lenzuolo, e sotto il torrente era asciutto. Si respirava benissimo, non era finita. Calmata un poco la meraviglia, vide davanti ai piedi una scaletta a gradini discendenti fino alla porticina di una casetta che stava sul fondo. La Bruna era indecisa davanti a quel mistero, grande e rischioso per chiunque, ma ella, ignara del pericolo, ricordò soltanto che doveva mantenere la promessa fatta di lavare il fazzoletto della vecchina e per farlo doveva ritrovare quel sapone. Qualcuno, ella pensava, l'avrà pur visto, e discesa al fondo del torrente. Una di voi? Sì, discese al fondo. E discese al fondo del torrente. La Bruna indugiava. Quella casupola che sembrava di legno era troppo grande per essere un giocattolo e troppo piccola per delle persone. Ma davanti ad una porta chiusa non si può fare altro che bussare, no? Bruna lo fece e poco dopo si udì una voce profonda chiedere: chi è? La lavanderina tirò un respirone di sollievo e disse tutto. Sono una ragazzina, così e così, e nel lavare ho perduto il sapone. Se lo avete trovato, lo vorrei per sbattere l'ultimo fazzoletto della vecchina. Infila un ditino nella toppa, disse ancora la voce. Bruna candidamente obbedì. Bene, il tuo ditino di putta è ancora insaponato. Entra pure. E cic-ciac, la porta si aprì ed apparve il gatto Mammone, che occupava tutta l'entrata. A quella vista Bruna sbatacchiò le palpebre per la paura. Capì di avere visto bene. Ella aveva, pure confusamente, udito parlare del gatto Mammone in modi diversi, poco chiari, non in senso cattivo né buono, ma evidentemente misterioso, e forse, in fondo al fiume, non lo aveva mai visto nessuno. Per la Bruna, che se lo trovò davanti, con grandi occhi neri e baffoni, con grandi occhi neri e baffoni arricciati in su, era una continua meraviglia. Il pelo del corpo, dai piedoni al codone, a tutto il resto, non era di nessun colore, o meglio, era color dell'acqua chiara, quindi quasi non lo si vedeva, tranne quando era vicino a qualcosa che, specchiandosi in lui, ne rifletteva il colore. «Entra pure», invitò Mammone. «Io, il tuo sapone, proprio per farti un piacere, te lo restituisco, ma piacere per piacere, vorrei un favore da te. Vorrei che dessi il latte con il biberon ai miei micini». E, nel dire, indicò un fazzolettone d'acqua chiarissima sopra un cestino posato sul pavimento, contenente i piccoli dormienti l'uno sull'altro. allorché qualcuno di loro si agitò. Anche l'acqua si mosse, facendoli sembrare altrettanti pesciolini. La bruna pensò un poco, poi raccolse con ambo le mani due lembi del singolare fazzoletto e, con molte precauzioni, lo posò sul bordo di un cestino vuoto a portata di mano. Incredibile, ma tutto bene. Poi, lentamente rigirò su loro stessi ed allattò ogni piccino senza sollevarlo, sì che nessuno di loro si svegliò. Indi ripeté con successo la ricopertura dei micini, riponendo il fragilissimo fazzoletto d'acqua senza stracciarlo e senza tramutarlo in gocce. «Ho fatto quanto mi hai chiesto», sussurrò la bruna, «ma manca ancora qualcosa che, per abitudine, faccio sempre». Prese un cencio di stoffa e spolverò tavola e sgabello. Con la scopa ramazzò il pavimento. Poi ancora passò a terra il cencio, sì che la casetta non sembrava più quella di prima. Si fermò in attesa. A quella vista d'ordine e pulizia, Mammone roteava i grandi occhi che ad ogni giro cambiavano colore e dai quali si capiva l'evidente gradimento. Poi disse: «Sentimi ancora, putta. Vedo che hai bisogno di un vestito. Prendi quello che vuoi, per mio ricordo». E ciò dicendo, aprì due grandi armadi, pieni entrambi, l'uno di vestiti bellissimi, l'altro fatti di stoffe modeste. Bruna scelse una buona sottana lunga fino ai piedi, ringraziò Mammone e si diresse verso l'uscita, dove doveva andare. Lo strano gattone dai baffoni neri, gli occhi colorati ed il pelo color dell'acqua le tese un pezzo di sapone mai usato. Aprì la porta e la salutò. «Buona fortuna, puttina! Sii sempre servizievole e, se puoi, generosa!» Mammone scomparve e la bruna salì sulla riva del torrente. La vecchina, seduta all'ombra, almanaccava da alcuni minuti come poteva compensare la bella fanciullina che stava lavando il suo fazzoletto da tenere in testa. Prudente com'era, pensava qualcosa che, se accettato, dopo un momento di gradimento, non avesse complicazioni naturali da diventare poi dispiaceri non voluti. Improvvisamente, visto Bruna venire verso di lei, si ricordò che da un poco non la vedeva sul greto. Ma la ragazzina, giunta a pochi passi, già tendeva il fazzoletto lavato, asciugato e ben teso, stirato come succede quando si espongono le stoffe al sole. «Ti ringrazio molto per il favore che mi hai fatto, spero non t'abbia cagionato troppa fatica». La bruna rispose con un bisbiglio: «Non molto, visto che già dovevo lavare il vestito». «Sei gentile a sollevarmi dal pensiero d'averti chiesto un piacere, ma piacere per piacere io desidero sdebitarmi in qualche modo. Anche se, come vedi, io non possiedo nulla, io sono povera, ma di consigli utili sono ricca. Ora io lo vedo, tu ritorni a casa giustamente lieta, però oggi, in questo luogo, la fortuna può mutare come muta la luce del giorno. Ti raccomando, se senti l'asino ragliare, non ti voltare. Se senti invece il gallo cantare, voltati». La bruna si incamminò verso casa, a cuor leggero, accantonando nella mente le raccomandazioni della vecchina. Ella prese a pensare alla madre e alla sorella, che sembrava l'aver lasciato da tempo. Il sole era alto e lei avrebbe dovuto essere già rincasata. Forse avrebbe ricevuto qualche rimprovero, ma poteva mai raccontare, per vero, quello che le era accaduto? La bionda forse avrebbe riso di lei, ma la mamma? Basterà mostrare il pezzo di sapone ancora nuovo? Fu distratta un poco da una grossa nube che oscurò una parte del cielo, ristorando la strada assolata. Allora sussultò udendo l'asino regliare. «Povera me», balbettò, «cosa mi aveva raccomandato la vecchina? Voltarmi, non voltarmi». E con paura continuò per 10 passi, finché udì il gallo cantare. Lei si volse. meraviglia delle meraviglie, una stellina azzurra improvvisamente le si accese quasi sulla fronte. Non solo, la sottana che indossava, lunga fino ai piedi, si avvolse di un chiarore di luna mai visto. Tutta la valletta riluceva. Immaginarsi quello che avvenne appena entrata in casa. La madre quasi cadde per lo spavento. Bionda era finita a bocca aperta e non riusciva a chiuderla. Anche Bruna si chiedeva, quasi con colpa, che diavolerio aveva portato a casa. Dopo molti: cosa ti è successo? Ma cosa hai combinato? Oh, che guaio! Che ne sarà di noi? Finalmente la Bruna riuscì a raccontare ogni particolare per filo e per segno. E del sapone, e del gatto mammone, i gattini, e così, ma quando disse del fazzoletto d'acqua, del non ti voltare prima e del voltare dopo, si avvide con dispiacere che mamma e sorella la guardavano con occhi più grandi di quelli di gatto mammone. Bionda si mise a battere i piedi e piangere come una fontana e singhiozzava. Io ho una sottana corta e tu lunga. Tu hai una stellina in fronte e io il naso rosso. Sono una ciabattina rotta. E comprensibilmente sconvolta, oltre che pentita di non essere andata al mattino con la Bruna, non la finiva più. Sorellina cara, suggerì la maggiore. Ti ho detto tutto di stamane. Il giorno è ancora lungo e penso benigno. Non riuscì a completare quanto si poteva ancora fare. La bionda, come un frullo di vento, si precipitò sul cesto, buttò dentro un vestito pulito, il sapone avuto da mammone e filò via di corsa al ruscello. Per il desiderio di avere anche lei, subito, la sottana lunga, la stellina in fronte, non fece le cose prendendole con calma e per il verso giusto. Passò davanti alla vecchina e quasi le tolse il fazzoletto giallo dal capo, bagnò appena il vestito e fazzoletto, lasciandoli sulla pietra. Buttò il sapone nel torrente, che finì in casa dei gattini che sappiamo. Scese di corsa la scaletta, andando a sbattere contro la porta. Era veramente un giorno benigno per lei, tanto che da subito mammone intuì cosa stava succedendo. E ripensando alla Bruna fu paziente con Bionda, anche quando assisté al maneggio del fazzoletto d'acqua, che sfuggitole dalle mani, cadendo sul pavimento, diventò tutto pozzanghera e schizzi. Indulgentemente sorrise sotto i baffi. Sorrise meno quando la bionda con il biberon impastrocchiò i gattini che rimediarono leccandosi a vicenda. Bisogna riconoscere che Bionda seppe farsi perdonare quando, visto il diavolerio fatto sul pavimento, come già Bruna, anch'essa ripulì a modo. La cerimonia della scelta del vestito come premio, si fa per dire, ebbe un compimento immaginabile. La bionda, bacinata dai vestiti belli, quasi non vide i modesti. Mezzi incantata, com'era, da una sottana lunga fino ai piedi, colma di perline, la indossò subito. Quando mammone le restituì il sapone, turbata dalla frenesia che l'agitava, ella neppure lo vide. Nella sua mente immaginava se stessa pavoneggiarsi sulla stradetta. Prima di uscire, mammone, fattosi serio, la trattenne per la mano e disse: «Bella putta, quando avrai contato fino a 100, il giorno benigno sarà finito. Corri!» La ragazzina, portata com'era a non obbedire, con prontezza si avviò lungo la scaletta, preoccupata di non pestare la sua ambita sottana lunga fino ai piedi. In quel momento il conto era a 30. Fin da quando Bionda corse fuori di casa, la madre e la Bruna erano in grande ansia. La madre temeva per la figliolina, tanto sbadata, mentre la sorella si arrovellava nel pensiero, temendo di non aver detto tutto, e si chiedeva cosa poteva fare per la bionda. Intimamente sentiva di aver potuto dimenticare o non aver fatto subito qualcosa che aspettava a lei compiere. La madre, singhiozzando, si raccomandava al cielo, invocando generosità per quella sua puttina sola sulla via. Un lampo di memoria attraversò la mente di Bruna. Mammone, sì, mammone mi ha detto nel salutarmi di essere generosa. Ecco quello che avrei dovuto fare prima. Ed uscì di corsa incontro la ignara sorellina in pericolo. In quel momento il conto era a 50. La Bruna corse a perdifiato, sentiva che il tempo era ormai poco e gridò disperata quando ancora lontana non vide il fazzoletto giallo e la vecchina era scomparsa. Il giorno benigno stava per morire. Quando la sorella comparve fuori del ruscello, la chiamò con le lacrime agli occhi. «Corri, biondina, corri, corri da me!» Le tese le braccia, in quel momento il conto era 95. Il somaro ragliò. Biondina ignara si volse indietro. Allorché Bruna l'afferrò tra le braccia, il giorno benigno si fermò. Il conto era irrimediabilmente a 100. La biondina, come colpita alla schiena da un dolore, lanciò un urlo. Ma la Bruna si strappò la stellina dalla fronte e tutto precipitò nell'ombra del giorno tramontato. Tremando di terrore, restarono abbracciate per un poco di tempo. Allora, poi la Bruna, lentamente, senza sapere se bene o male, spezzò la stellina e ne pose la metà sulla fronte della sorella e l'altra metà sulla sua. E attese. Dopo attimi di grande tremore, attorno si fece luce. Il giorno benigno aveva ritardato per loro l'ultimo rintocco. Le sorelle si guardarono piangenti e felici. La mezza stellina della Bruna, ridiventata intera, brillava azzurra sulla fronte e la sottana splendeva del chiarore della luna. La mezza stellina della biondina, anch'essa di nuovo intera, brillava rosa sulla fronte e la sottana splendeva della luce del tramonto. Mentre tornavano a casa sotto braccio, Bruna ripensò con gratitudine al gatto Mammone per i consigli che le aveva dato. Nel buio della sera, il chiarore che le attorniava aveva incuriosito persone del loro paesuzzo. Lontani com'erano, aguzzavano lo sguardo e si parlavano sottovoce. Le madri additavano e dicevano alle figlioline: «Guardate, guardate quelle due puttine, per essere tanto belle, chissà quanto sono brave». Al tempo dei nonni queste cose accadevano. Potranno mai più ritornare? Basta. Direi basta. Allora, Linda Rigotti, Federica Falancia e Costanza Savini hanno appena finito la lettura delle favole. Queste favole erano dedicate a Delia Media da Cinzia Pietro Biasi, che non è potuta venire qua, quindi noi in estemporanea siamo venute qui a leggerle al posto suo. E visto che siamo qua, vogliamo ricordare che noi siamo tre parti di uno dei gruppi di Elia Media. Il nostro gruppo si chiama 1920 e il nostro piccolo intervento si chiamerà Hotel Nosphere. E sempre qui in diretta da Piazza Puntoni. Intanto spieghiamo anche cos'è Elia Media. Ricordiamo che siamo in diretta da Piazza Puntoni, ricordiamo sempre che siamo a Bologna, anche perché siamo in streaming, quindi la radio è sì a Bologna, ma può essere ascoltata più o meno ovunque. Più o meno ovunque in streaming su, come ho detto prima, eliamedia.org, trovate il modo per contattare la nostra trasmissione, oppure direttamente dal canale a Elia Media, che trovate su ustream.tv, ripeto, ustream in italiano, .tv. Siamo in diretta tutti i giorni, dalle 16 alle 20, dentro una strana installazione a Lancione, per chi è di Bologna e passa dalle parti di Via Zamboni, dove Via Zamboni incrocia Via Belle Arti, insomma. Lì c'è una struttura pronta all'uso per noi, e non solo, aperta anche a chi vuole venire a trovarci per mandare cose registrate, interviste e anche interventi dal vivo. Ora direi di introdurre un'altra trasmissione. Sì. Un'altra trasmissione con qualcosa di registrato, direi. È una bellissima bambina con una cicatrice sul volto che quindi distoglie l'attenzione da quello che veramente ha da dire. Vorrei che fosse un albero da frutto che è cresciuto nel suo luogo autoctono. è una cristallizzazione di comportamenti. Vorrei che fosse bastarda. It is something my house is full of. I wish it was a full place, without any bounds, without any rules, without any self-consciousness, without any desperation or nostalgia, and without any desire to matter. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. Empire State Building, oh, c'est haut. Rockefeller Center, oh, c'est haut. International Building, oh, c'est haut. Waldorf Astoria, oh, c'est haut. Pan American Building. Ciao a tutti, mi chiamo Fedra e sono qui in Piazza Puntoni per presentarvi un programma che andrà in onda a partire da lunedì prossimo. Si intitola Appunti Periferici. E per realizzarlo ho invitato un bel po' di persone a riflettere sul perché e sul come realizzare eventi artistici, culturali e spettacolari nei quartieri fuori porta. A spingermi in questa direzione alcune riflessioni sui temi delle politiche interculturali, unite all'evidente necessità di recuperare all'uso sociale gli spazi pubblici. Per entrare nel merito degli argomenti vi propongo tre brevi testimonianze. A ciascuno degli intervistati ho chiesto di incontrarmi in un luogo significativo per l'evento di cui si sarebbe parlato. E così Massimo Carosi, direttore artistico del Festival Danza Urbana, mi ha dato appuntamento nel cuore del ghetto ebraico, in piazza Marco Biagi, per parlarmi del festival e delle sue origini, anche connesse all'università. Il circolo universitario Motus e quindi poi tutta l'esperienza del Festival Danza Urbana nasce appunto perché nel 93 fu istituita presso il DAMS di Bologna l'insegnamento di storia della danza retto dalla professoressa Eugenia Casini Ropa. E nel 96, sempre a settembre, all'interno dell'allora programma Bologna Sogna Open Festival, un gruppo di studenti e danzatori svilupparono l'idea di proporre un esito spettacolare e non avendo spazi scelsero la città. Questo lavoro era un ibrido tra uno spettacolo di teatro di strada, danza architettura e performance urbana. Lo spettacolo si svolgeva in diversi luoghi, durava 2 ore e intercettava quindi tanto pubblico nei vari luoghi, però riusciva poi a incuriosirlo, a portarlo con sé. Allora il Festival Danza Urbana nasce da un gruppo di studenti che volevano in qualche modo indagare le possibilità di mettere in relazione la danza con il paesaggio urbano. Si voleva anche avvicinare un pubblico più ampio di quello che va a teatro, portando appunto gli spettacoli in mezzo alla gente. L'idea era anche quella che i corpi dei danzatori negli spazi della città aiutassero a umanizzare gli spazi pubblici avvertiti sempre più come estranei o comunque come luoghi consueti, ordinari e quindi magari con una minore attenzione e interesse. Questa fu l'intenzione, l'urgenza iniziale, che poi pian piano si tradusse anche in una riflessione più profonda sulle implicazioni dell'agire nello spazio urbano, del significato politico, sociale, affermare la necessità di uno spazio pubblico di condivisione, di riconquistare alla fruizione anche di attività culturali gli spazi della città, contro una tendenza occidentale di privilegiare una fruizione degli spazi della città come luoghi di transito o per attività di carattere economico o commerciale. Sento che è sempre più cresciuta il bisogno di eventi partecipati, e in questo bisogno di coinvolgimento c'è un bisogno anche proprio di recuperare una percezione di identità agli spazi. Gli eventi culturali in genere, gli eventi artistici, ricostruiscono un rapporto tra i cittadini e i luoghi della città. Questo è un bisogno forte e ne indice senz'altro la partecipazione sempre molto, molto forte del pubblico agli spettacoli del festival. Il pubblico del Festival Danza Urbana non è solo il pubblico che abitualmente va a vedere gli spettacoli di danza, ma è un pubblico molto più ampio. La gratuità degli eventi, il fatto che si svolgano in spazi pubblici e non ci siano, come dire, dei limiti, degli ostacoli alla fruizione degli spettacoli, e dà una grande libertà alle persone di potersi soffermare o andare via quando vogliono. Trovando la modalità giusta, il contesto giusto dove collocare gli eventi, si crea un interesse, una curiosità, un'attenzione molto molto ampia. Molto spesso il pubblico viene e non sa bene che cosa sta accadendo, però rimane perché è affascinato o incuriosito, oppure viene perché c'è uno spazio insolito che viene utilizzato, forse a volte è un luogo che non si è mai potuto visitare, oppure un luogo che si conosce, lo si è sempre visto in un certo modo e si sa che accade qualcosa, un evento, uno spettacolo, attrae e incuriosisce proprio per questo legame che poi i cittadini ricercano con il proprio habitat, perché la città in fondo è il nostro habitat e il rapporto che abbiamo con questo habitat sente la necessità di ogni volta rinnovarsi. E dunque, ritornando qui in Piazza Puntoni con Fedra per Aelia Media, e vi sottolineo l'attenzione di questo contributo per l'uso degli eventi artistici come strumenti utili a rinnovare il rapporto tra i cittadini e il territorio. Ma non solo, perché Massimo Carosi ha parlato anche dello spazio urbano come del nostro habitat e dunque anche come luogo in cui poter lasciare agire forme di comunicazione inedita. Ma passiamo al secondo intervento, che è stato registrato passeggiando per il Mercato Vecchio, quello di fianco a Piazza Maggiore, in compagnia di Roberta Zerbini, direttrice artistica della Giornata Mondiale della Danza. 29 aprile. L'evento più giovane fra i tre che ho scelto di presentarvi, ma non meno significativo rispetto alle finalità e all'uso dello spazio pubblico. Ma lasciamo che sia la sua propria voce a parlarcene. La Giornata Mondiale della Danza è indetta dall'UNESCO. 29 aprile è la nascita di Novaire, che è un po' lo spartiacque fra la danza tradizionale, accademica, di corte e quello che poteva essere una danza teatrale. Poi da lì, insomma, la storia, diciamo, è abbastanza lunga e complessa. Si festeggia un po' ovunque, dietro al festeggiamento c'è tutto un discorso comunque di politica culturale sulla città. Queste incursioni danzate all'interno della città non sono nate in un luogo specifico, ma in realtà sono nate per all'improvviso incontrare la gente, per far sì che l'arte, la cultura e soprattutto la danza nello specifico contemporanea, che sono un po' distanti, ahimè, dal pubblico comune, veramente fossero a contatto diretto, senza bisogno di una scelta prioristica, ma veramente all'improvviso. Sono state tre edizioni differenti. Il punto chiave era, durante tutta la giornata, degli eventi danzati sporadici, quindi della durata di 10-15 minuti, ma anche 2 o 3, all'improvviso si dovevano svolgere nella città. Dopo tutta questa giornata, dove questi danzatori, siamo arrivati a vedere coinvolti 350-400 danzatori all'ultimo evento, e inondavano la città, dopo ci si ritrovava la sera in una location ovviamente di grande prestigio, che è il Mambo, dove si svolgeva una festa, un evento performativo all'interno di questi spazi museali che sono il cuore un po' della città artistica bolognese. Siamo venuti qua perché proprio qua è accaduto qualcosa di abbastanza singolare. All'ultima edizione c'è stato un gruppo di danzatori riuniti da varie parti d'Europa. Lavorano con la danza Bu, magari per spiegare un po', diciamo, una danza molto teatrale, molto istintiva, per essere abbastanza veloce nella descrizione. E volevano lavorare in questi spazi, in questi luoghi molto interessanti per i colori, per i profumi e per l'energia della gente che comunque passa in maniera molto frettolosa. E c'è stata una grande partecipazione della gente che non capiva bene, vedevano questi ragazzi magari che si accasciavano a terra, che rotolavano, e quindi c'erano queste persone, principalmente anziane, insomma, che si avvicinavano chiedendo se andava tutto bene, insomma, se era tutto sotto controllo. E questo ha fatto poi nascere la caratteristica di quella performance in quel luogo e in quel momento, e quindi hanno cercato per tutta la giornata di lavorare sull'incontro con queste persone non più giovanissime, che la danza contemporanea la ritrovano un po' straniante, difficile da comprendere. Sarebbe interessante poi riuscire a capire se l'incontro lo vivono più come un'esperienza positiva o come magari una mancanza di tatto e di sensibilità, perché in effetti, insomma, viviamo una società che in questo momento la sorpresa, l'incontro, la persona, la propria persona, il proprio spazio fisico sembra che vadano molto protetti rispetto magari all'incontro e al vivere comunque in maniera positiva una situazione che ti capita senza averlo stabilito. È un gioco molto difficile questo e molto importante, perché comunque penso che si debba scardinare questo spazio privato, individuale, che sta veramente chiudendo ogni dialogo. La danza ha questa grande fortuna, soprattutto se non la si limita nei generi e nelle motivazioni, ha questa fortuna di portare con sé una gamma di emozioni infinita, può veramente incontrare un po' tutti. Qui sottolineo l'azione sinergica fra un vasto numero di realtà associative al fine di regalare ai cittadini e ai passanti di Bologna una festa a sorpresa e gratuita, in cui i codici della ricerca contemporanea possano essere fruiti in totale spontaneità, come una festa all'improvviso. Last but not least, abbiamo qui una registrazione, una testimonianza di Francesco Volta che ci offre alcune considerazioni in merito alla ormai mitica parata Partot. Stiamo andando di fronte all'ingresso di Palazzo d'Accursio, il palazzo del comune. È un luogo importante ed è un luogo che noi abbiamo conquistato. È successo per la prima volta nella Partot Parata del 2009. Ed è risuccesso nell'edizione del 2011. Beh, diciamo che non era un vero e proprio obiettivo, però ci abbiamo messo 8 edizioni, che abbiamo incominciato dal basso. Quando è passata la prima parata, la gente per strada ci chiedeva: ma chi siete? Siete in O'Global? Ma già da lì c'era un pochino di storia della Partot, che era un po' essere artisti, un po' essere cittadini che lanciano dei messaggi, un po' essere anche persone che hanno voglia di occupare la strada per svagarsi e per stare insieme, quindi per creare socialità. Per chi fa la Partot è più importante il processo. Quello che tu vedi in quella data, giornata X di giugno, è solo l'apice. 3-6 mesi prima, tutte le persone che si sono messe d'accordo, tutti quelli che hanno cercato di fare laboratori, e chi non lo Voglio dire, chi lo vede da fuori non riesce a immaginarselo. La Tartot si basa soprattutto sulla fiducia, cioè sulla fiducia che gli artisti hanno fra di loro, che gli artisti hanno con l'organizzazione, anche con l'associazione Oltre, che si fa in un certo qual modo garante di questa equità di trattamento all'interno della parata. Nella Tartot abbiamo avuto dei grandissimi artisti, ce li abbiamo ancora, che si mettono a disposizione gratuitamente perché condividono anche un percorso, condividono anche un'idea politica di città, di modo di fare arte e cultura nello spazio sociale. Chi viene nella Tartot sa che quando c'è un discorso di intercultura per forza devi sempre abbandonare un minimo della tua sacralità e del tuo dogmatismo per aprire all'altro. Siamo assolutamente glocal, viviamo nel locale ma ci nutriamo con tutto ciò che è internazionale. Siamo nati dalla parata di Bruxelles, come associazione abbiamo dei contatti continui con Lille per la festa della zuppa che ritorna dentro la Tartot in mille forme, e poi c'è la parata di Belfast, abbiamo tante connessioni a Lubiana, a Barcellona, a Parigi e a Redon, creato una fitta rete di parate internazionali, e poi in tutta Italia c'è la parata Partouche di Como, i pesci fuor d'acqua di Venezia, il carnevale di Scampia a Napoli, che è un'altra cosa ma che ha trovato nuova linfa vitale nelle connessioni con Parata Tartot. Ogni anno si parla del fatto se vogliamo mettere delle transenne per dividere il pubblico dalla gente che fa la parata. Alcuni sono favorevoli, alcuni sono contrari. Fino ad ora siamo arrivati alla decisione che questa osmosi tra cittadini e artisti, o cittadini che sono diventati artisti per un giorno, è fantastica e non va persa. Chiaro che la Tartot è per tutti, quindi è un po' la città di utopia anche, però quest'anno abbiamo visto dei venditori abusivi con baracchino, con tanto di gruppo elettrogeno e rifornimenti in vetro. Questo fenomeno indubbiamente noi ci castra totalmente, va a scapito di tutta quella formula artistica e partecipativa che invece è, di cui è fatta la Tartot. A questo punto c'è bisogno dell'aiuto di tutti, di un ripensamento totale. Nei prossimi anni forse ci si potrebbe allontanare dal centro e forse trovare dei percorsi che potrebbe includere ancora di più la vecchietta che stende i panni nella casa sua, e quindi essere ancora più per tutti. Non è usuale per la Tartot citare le istituzioni, ma lo voglio fare con piacere. Mauro Felicori, direttore della cultura attualmente a Bologna, anche nella presentazione dell'ultima Tartot ha detto: ma la Tartot è un po' come la felicità, o ce l'hai o non ce l'hai. Questa definizione mi è piaciuta tantissimo, proprio perché dentro questa definizione della felicità della Tartot c'è un pochino la spontaneità di chi vi partecipa. Ci stiamo avvicinando alla questione. Come appare evidente da tutte queste realtà, seppur con diversi approcci e caratteristiche, ci sono tratti estremamente comuni sul piano delle finalità, ed in particolare questa complanarità pertiene le urgenze sociali e politiche che caratterizzano la nostra contemporaneità. Un'ultima e preziosa occasione di riflessione ci è regalata dalla visita di un graditissimo ospite, e lo stiamo aspettando. Frattanto vi volevo porre all'attenzione e proporre l'ascolto di Louis Thomas Harting in Arte e Moondog, con la traccia In a Doorway, che nasce nello scenario della New York anni 40. Thank you. Eccoci in Piazza Pontoni, questa bella giornata di inizio autunno, e è arrivato ad aiutarci in questa presentazione Riccardo Balli, e con lui vediamo di aspettare un altro ospite che per il momento manteniamo misterioso, dalla cui voce vorremmo sentire quella che è la posizione delle istituzioni nel confronto del tipo di realtà che stiamo trattando qui. E in particolare Riccardo Balli ci parlerà di un suo progetto attualissimo e estremamente prossimo a quelli che erano i temi della mia ricerca. E è con noi Riccardo Balli. Sì, ciao. E vi parlerò dunque di bolognoise.org, e fin dal nome, no? La crasi tra Bologna e noise, ironizzando anche un po' sul dialetto bolognese bulgnaise. Chi mi deve intendere mi intende, insomma, che è un portale, appunto bolognoise.org, organizzato come un archivio di suoni della città. È geolocalizzato su Google Maps, per cui dall'alto vedi in sostanza all'interno di un frame grafico abbastanza semplice, non elaborato, vedi la mappa di Bologna con cui puoi interagire praticamente a livello di suoni. Infatti l'idea di bolognoise.org, sulla scia di tutta una serie di soundscape, cioè di paesaggi sonori che hanno iniziato a diffondersi in Europa, diciamo a seguito dell'interesse mossosi da certi teorici come questo Raymond Murray Schaeffer, eccetera eccetera, sul discorso del il suono della città e il paesaggio urbano, quindi a seguito di esperienze come questo Sons de Barcelona, che è il più famoso, che è partito nel 2002, o questo che è addirittura, che è ovviamente un archivio di suoni della città di Barcellona, o se no di questo apori.org, che invece è un archivio globale di suoni di tutto il mondo geolocalizzato, bolognoise.org intende lavorare sul territorio bolognese fin dal nome, insomma, e offrire la possibilità a chiunque di una banca dati di suoni concreti della città. Quindi tutto può essere, cioè, vabbè, diciamo i più banali, no? Le fontane del Nettuno, le campane di San Petronio, ma anche cose identitarie di Bologna, anche divertenti, Beppe Maniglia, ma qualsiasi cosa viene, può essere ascoltata o anche caricata, o anonimamente o registrandosi come utente, come in qualsiasi social network, però basato sul suono. Ecco. E infatti io... Infatti io ho dato un'occhiata all'interfaccia, sì. E l'ho trovato estremamente fruibile. Si parte con una piantina della città che si può vedere anche via satellite, e sono segnalate delle icone a seconda del tipo di contenuti, siano voci, esatto, audio, esatto, dai grilli alla fontana al rumore dell'autobus. E da quando è partito? Ecco, infatti è una domanda molto giusta. Fai conto che quello che hai visto, il progetto è partito il 28 settembre. Quindi in realtà l'idea di bolognois.org è creare una community di gente che faccia un ritratto sonoro di Bologna. Ovviamente, visti i tempi, oggi siamo è passato poco tempo, quindi le potenzialità le esploreremo durante quest'anno. Ecco. Cioè la creazione di una community di riferimento, di scambio di suoni, eccetera, eccetera. E l'idea è interessante anche secondo me, perché spesso queste cose sono state appannaggio magari di un mondo legato alla ricerca musicale, anche accademica, no? Il conservatorio, eccetera, eccetera, perché parliamo di registrazioni, di musica concreta, eccetera, eccetera. L'idea di Bolognois, oltre ad essere attenta a questi ovviamente contributi che ci interessano molto, è però quella di essere veramente aperti a tutti. Adesso con uno smartphone è possibile registrare, il tuo aspirapolvere e se vuoi caricarlo su Bolognois, geolocalizzandolo, dando descrizioni del o semplicemente non dicendo niente, insomma. Noi pensiamo che, ecco, questo discorso del sonic branding, cioè della mappatura sonora, sia molto interessante, quindi anche un contributo da gente come può essere il ragazzino, adesso ti faccio un esempio, capito, del pilastro col motorino truccato che gli gasa l'idea di caricare il suono del suo motorino su bolognois.org. per noi è altrettanto interessante che invece il contributo magari di chi si occupa di musica elettronica, magari con lo zoom o con dei microfoni di un profilo più alto, carica dei suoni ambientalmente più interessanti, ecco. Una curiosità, non ricordo se ci sono indicazioni anche sull'ora. Riflettevo con uno degli intervistati sul fatto di riprendere lo stesso luogo a orari diversi. Ovviamente sono tutti cosmi e universi diversi. Sì, certo. E ovviamente la cosa è lasciata molto libera. Cioè l'utente può essere anonimo e lasciare il contributo anonimo, se no si registra come il My Mio Bolognois, si registra il suo profilo con i suoni caricati, i commenti a quei suoni, eccetera, eccetera. E ovviamente nei suoni che puoi lasciare anche libera e facoltativa un'opzione di descrizione di come è stato registrato, cioè dallo smartphone allo zoom al microfono binoculare, cioè per arrivare ai livelli altissimi, sia una breve descrizione del perché della registrazione lasciata al singolo, anche questa è facoltativa, con definizione dell'ora. Ovviamente il luogo risulta automaticamente, perché quando tu metti il microfonino, che è l'icona più comune di quelle che puoi usare, viene geolocalizzato sulla mappa, quindi capiamo esattamente il numero civico e l'indirizzo di dove il suono è stato preso, ecco. Ok, e dunque il microfonino va sul suono dove è stato caricato, cioè dal computer in cui è stato caricato il suono, oppure... No, va sulla piattaforma di bolognois.org, poi rimane anche sul computer, poi è scaricabile da chiunque anche... E questo chiunque, e anche questa possibilità o meno di dichiararsi come autore, oltre al lavoro ovviamente di mappatura sul territorio, hanno reso il tuo progetto, da che l'ho sentito, estremamente interessante rispetto a quelli che erano gli scopi del mio programma, che si declina attraverso un'indagine sui quartieri periferici. E da allora ho cominciato un po' a darti la caccia, e fortunatamente, sono contenta di comunicare a chi ci ascolta, avremo una buona partnership da parte di Bolognois. Esatto, infatti l'idea anche di interagire con Elia Media era quello di proporre dei contributi, visto che qualche registrazione c'è, Poi questo progetto è sviluppato da tre persone: me, Federico Mascagni, che si occupa un po' della comunicazione del progetto, e Salvatore Arangio, che invece è la persona che cura più l'aspetto appunto delle registrazioni audio, il quale appunto preparerà delle pillole geolocalizzate, una per ogni quartiere, che siano un po' una sintesi di come suona Santa Viola, come suona Saragozza, eccetera eccetera, e saranno diluite, mi sembra, a partire da lunedì, no? Saranno dei brevi contributi di 3 minuti. L'idea nostra è che di bolognoise.org è che ogni città, in un certo senso, suoni, abbia un modo di suonare suo, una propria identità sonora, quella che viene definita l'impronta sonora, cioè il suono in cui attraverso una comunità si riconosce. E appunto andremo cercando quella del quartiere, quindi andando ancora in un'unità più minima, più ridotta, insomma. E io sono estremamente grata di questa vostra volontà a partecipare. E inoltre volevo cogliere l'occasione, visto che hai parlato un po' dei quartieri e di come si svilupperà la programmazione, di ricordare che lunedì alle 16 qui da Piazza Puntoni partirà la prima puntata vera e propria di Appunti Periferici, che vedrà ospiti i vostri contenuti, sicuramente a spartire un po' i ritmi e gli argomenti, e vedrà come ospiti dal vivo Roberto Rettura, Diego Segatto, La Pesatura dei Punti e Nuvolo Valandini, che il quartiere di cui andremo a parlare è San Donato, e avremo anche un contributo rispetto a delle esperienze della Pilastrada promosse dall'associazione Oltre. E a questo punto farei partire nell'attesa del nostro ospite per il momento misterioso, sperando che insomma si manifesti prima o poi in questo bel pomeriggio ancora assolato. Farei partire un altro commento d'ascolto, a meno che tu non abbia voglia di aggiungere qualcosa, magari dove è nata l'origine di questa tua ricerca, che cosa c'è alle spalle, anche se bene o male. Ma sì, è nata, diciamo, come più o meno ti ho già accennato, no? Io mi occupo, faccio il DJ, ho un'etichetta discografica, quindi ho una sensibilità al suono, diciamo, e lo uso spesso per le mie tracce suoni concreti, suoni ambientali. Quindi da lì questa sorta di deformazione professionale, attenzione nei confronti appunto dei suoni ambientali, e poi un po' seguendo quello che stava succedendo online con questo radio apori.org o Sons de Barcellona, c'è stato questo bando GECO della regione per progetti multimediali che valorizzino il territorio locale. Mi è sembrata una buona occasione per fare una domanda presentando questo progetto. L'abbiamo fatto, abbiamo vinto, ed ecco www.bolognoise.org. Se non ricordo male, mi parlasti anche di un'altra tua precedente esperienza in una creazione radio sostenuta probabilmente da Roberto Pacidalò, sì. Diversi anni fa. Vuoi un po' parlarci di questa esperienza, visto che fortunatamente il tempo ci avanza e possiamo arricchirci dei tuoi contenuti? Sì, si parla del, mi sembra, 1997 all'interno del Link, quindi in età in cui la telematica iniziava. Il Link quando ero ancora nel quartiere Navile, sì, quartiere Navile, anche se sentito come bolognina, in realtà, esatto, abbiamo scoperto. Con il suono che indagheremo della bolognina nei prossimi pillole. Quindi si parlava già allora di radio orizzontali, cioè della radio come network decentrato, policentrico, che permette un'interazione maggiore rispetto al modello, quello di broadcasting, cioè un punto che trasmette nei confronti di una massa, ecco. In questo senso l'evento fu interessante, ecco, e in linea anche con quello che Ailey Media sta facendo adesso, ecco, sicuramente. Allora, A proposito di broadcasting e andando un po' a prestito dei contenuti che ha approfondito Marianna Mendoza, un'altra dei nostri producers, volevo chiederti dal tuo punto di vista perché lavorare con i media? Perché forse occorre cominciare a produrre dal basso, cominciare ad abbattere probabilmente la parete del broadcasting? Ma secondo me la questione è abbastanza complessa. Questa idea del rompere il broadcasting è sicuramente essenziale, ma ti dirò che è così essenziale da tanti anni che mi viene voglia di parlarti di qualcosa di assolutamente diverso, cioè di su quello siamo assolutamente d'accordo, Fedra, ed è il punto di partenza, ecco. Però, come ti dicevo, lo è da tanti anni che mi viene anche da parlarti dei rischi dell'orizzontalità della comunicazione. Cioè, esatto. Quindi fare un po' il bastian contrario. No, perché in realtà è una questione di misure, però esatto. Ti prego, continua. Per fare un po' il bastian contrario, cioè nel senso, mi riferisco magari all'ambito musicale, no? E a un discorso sulla qualità dell'ambito musicale. E, lì con quello che è un decentramento, un'orizzontalità dei media, con i social network, eccetera, eccetera, si è in una situazione in cui la musica buona è quella che ha più mi piace. Ovviamente mi sto riferendo a Facebook, al mi piace, alla funzione mi piace di Facebook. Questo è un fatto che non so quanto sia una liberazione, capisci? Una liberazione nel senso che entrano delle dinamiche altre, cioè quelle dinamiche che sono le dinamiche dei gruppetti di amici, delle lobby piccole, eccetera eccetera. Quindi ok, siamo tutti qui per avversare il broadcasting come modello di comunicazione e questo lo do per scontato come punto di partenza, ma così in tua risposta mi sembrava forse anche interessante evidenziare quanti problemi anche la comunicazione orizzontale dia e quante sacche anche di potere si possono creare difficili da svincolare, legate appunto a persone che dicono questo è bello e anche se quello fa cagare, questi lo dicono, sono numericamente di più, quello diventa bello, capito? La questione è complessa e decentrata. Indubbiamente, questo tema è estremamente anche in linea con i contributi che abbiamo ascoltato. Infatti molto spesso la questione che risultava dominante aveva a che vedere con l'inatteso, con l'incapacità di riuscire, con lo straniamento che una visione inattesa e da una forma non strettamente codificata riusciva a portare come simbolo, e spesso non è fruibile in maniera subitanea. Ripenso all'intervento di Roberta Zerbini che giustamente si chiedeva: ma queste persone, quando si trovano davanti a una performance di danza contemporanea, sono disposte oppure no? E secondo me la questione anche dell'etica, della comunicazione ha molto a che vedere con quelle che sono le intenzioni e gli sviluppi del gusto di massa. Occorre forse recuperare una capacità di esprimersi in prima persona e proprio lo spazio pubblico potrebbe, e in qualche modo anche lo spazio mediato potrebbe farci recuperare questa capacità. A questo punto io vi proporrei un altro ascolto che forse potrebbe anche richiamarci. Dopo introduciamo con Gainsbourg e poi ci sarà un'altra voce estremamente significativa e attuale, nonostante siano passati 40 anni rispetto alla nostra condizione. Vi prego di godervi Gainsbourg e poi quest'altra voce che sicuramente riconoscerete. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. Empire State Building, Rockefeller Center, International Building, Waldorf Astoria, Pan American Building, Bank of Manhattan. Building. Americana Hotel, CBS Building, RCA Building, First National City Bank. Eccoci di fronte alla struttura, alla forma, al profilo di un'altra città, immersa in una specie di grigia luce lagunare, benché intorno ci sia una stupenda macchia mediterranea. Si tratta di Sabaudia. Quanto abbiamo riso noi intellettuali sull'architettura del regime, sulle città come Sabaudia. Eppure adesso, osservando questa città, proviamo una sensazione assolutamente inaspettata. La sua architettura non ha niente di irreale, di ridicolo. Il passare degli anni ha fatto sì che questa architettura di carattere littorio assuma un carattere, diciamo così, tra metafisico e realistico. Metafisico in un senso veramente europeo della parola, se ricordo mettiamo certe pitture metafisiche di De Chirico. È realistico perché, anche vista da lontano, si sente che le città sono fatte, come si dice un po' retoricamente, a misura d'uomo. Si sente che dentro ci sono delle famiglie costituite in modo regolare, delle persone umane, degli esseri viventi completi, interi, pieni nella loro umiltà. Come ci spieghiamo un fatto simile che ha del miracoloso? Una città ridicola, fascista, improvvisamente ci sembra così incantevole. Bisogna esaminare un po' la cosa, cioè Sabaudia è stata creata dal regime, non c'è dubbio, però non ha niente di fascista in realtà, se non alcuni caratteri esteriori. Allora io penso questo, che il fascismo, il regime fascista, non è stato altro in conclusione che un gruppo di criminali al potere, e questo gruppo di criminali al potere non ha potuto in realtà fare niente, non è riuscito a incidere, nemmeno a scolpire lontanamente la realtà dell'Italia. Sicché Sabaudia, benché ordinata dal regime secondo certi criteri di carattere razionalistico, estetizzante, accademico, non trova le sue radici nel regime che l'ha ordinata, ma trova le sue radici in quella realtà che il fascismo ha dominato tirannicamente ma che non è riuscito a scalfire. Cioè è la realtà dell'Italia provinciale, rustica, palo industriale, eccetera, eccetera, che ha prodotto Sabaudia e non il fascismo. Ora invece succede il contrario, il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera, però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere della civiltà dei consumi, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini, che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è venuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggersi, distruggere, parire, sparire. Adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare. Eccoci di nuovo in piazza, siamo in attesa, dovrebbe arrivare a momenti, del nostro ospite misterioso, quello che avevo annunciato prima e tramite la cui voce potremmo apprendere quali siano le posizioni delle istituzioni nei confronti di manifestazioni che, come quelle sin qui trattate, alludo agli interventi che abbiamo sentito all'inizio e vi ricordo un po', si trattava di danza urbana, della giornata mondiale della danza e della parata Partot, quindi quelle manifestazioni che si realizzano negli spazi pubblici e che sono capaci di attivare dei processi di significazione e di esperienza e quindi promuovere la possibilità di produrre uno scarto nella qualità e nel modo in cui noi guardiamo e percepiamo il territorio in cui muoviamo le nostre vite, insomma, ci incontriamo. Questi territori, la città in cui io vivo da un po', è Bologna. E ho deciso, alla luce di alcuni spunti sull'interculturalismo, anche raccogliendo alcune degli stimoli che erano la base del progetto di Alea Media, progetto che ha vinto il primo premio internazionale di arte partecipativa organizzata dalla Regione Emilia-Romagna per Bologna, e quindi Alea Media, il progetto di Pablo Il Guerra, che ci raggiungerà per la fine delle trasmissioni e che comunque è sempre stato un po' presente in tutti noi, che si basavano principalmente sulla necessità e sull'urgenza di recuperare un uso pubblico della piazza. E in particolare un'accezione, uno spunto che ho raccolto con molto fervore, diciamo, arriva da un sociologo americano che si chiama Oldenburg, che teorizza per la società occidentale la perdita del terzo luogo, ovvero quel luogo che non è il luogo privato, non è il luogo di lavoro, ma che è il luogo pubblico dove ci si può incontrare, dove a mio avviso, ma credo di non essere che siamo in molti ormai a pensarla così, il luogo in cui possa nascere la vera individualità, un'individualità che viene a realizzarsi nello spazio della partecipazione. E allora io sono andata ad indagare in questi due mesi estivi nei quartieri e di qui ho realizzato i materiali teorici che andranno a sostenere le puntate che seguiranno la settimana prossima. Il 17 ottobre, lunedì, alle 16 se non sbaglio, cominceremo con il quartiere San Donato, come accennavo prima. E volevo raccontarvi anche di un'altra cosa, intanto che aspettiamo il nostro super ospite a sorpresa, che queste puntate sono state precedute da una piccola indagine in site specific e ho coinvolto diverse, tantissime, e le ringrazio tutte, persone che lavorano nell'ambito delle enunciazioni artistiche per Bologna e le ho invitate ad accompagnarmi in quelle che ho definito interviste peripatetiche. In sostanza ho chiesto a diversi professionisti residenti nei quartieri fuori porta di accompagnarmi per il quartiere e regalarmi l'occasione di un dialogo sui temi che intendevo indagare per la realizzazione di questi contenuti che andranno in onda dalla prossima settimana. Così la necessità, così poi anche è nata la necessità di un commento sonoro di Bolognois o Bolognese, come ci diceva prima Riccardo Balli, ospite in trasmissione. E, a questo punto vi vorrei proporre

e lì riescono a coprirsi abbastanza bene le spese. Altrimenti fino al 2009 esisteva un fondo ministeriale per la pluralità nella diffusione della carta stampata e anche radiofonica e televisiva, che però è stato decurtato tra le tante cose giusto l'anno scorso. Taglia qua, taglia di là. Radio Kairos, per esempio, si autofinanzia e viveva di questi fondi e ci autofinanziamo organizzando eventi, vabbè, piccoli aperitivi dove suoniamo noi stessi, quindi raccogliamo un po' di soldi e per ora ci bastano. Ok, senti, l'ultima domanda. Cosa sei? In che senso? Beh, è una domanda un po' grande. mettiamo speaker radiofonico. Ok, allora grazie, vabbè. Ora subito do la parola a Fedra Boscaro con la sua trasmissione per appunti di periferia. Grazie. Eccomi di nuovo qui. L'ospite misterioso è arrivato e finalmente, grazie alla sua presenza e alla sua partecipazione, avremo modo di sapere un pochino in merito a queste in merito alle trasmissioni di cui ai festival di cui vi ho parlato prima e quali sono le posizioni dell'istituzione nei confronti delle attività Insight Specific. Ora ritrovo un attimino il foglio delle domande. Comunque ho il piacere, grazie, di presentarvi il nostro ospite misterioso, ovvero l'assessore Matteo Lepore. Grazie per essere venuto. E un microfono glielo diamo per caso? Ok. Non lo so. Funziona adesso. Ecco, salve, sì, perfetto. Buongiorno. Grazie mille, grazie di cuore per essere qui con noi. E so che la sua giornata è estremamente ancora densa di appuntamenti, perciò passerei subito a farle le domande in modo da... Allora... Nei confronti, allora, volevo chiederle, noi abbiamo fatto tutto un percorso attraverso eventi che vengono realizzati in Site Specific e che hanno tutti dei punti in comune. E in particolare volevo chiederle qual è la posizione delle istituzioni nei confronti di questo tipo di manifestazioni, manifestazioni che dunque agiscono nel territorio urbano e che sono caratterizzate dall'urgenza di recuperare il territorio come luogo di socialità. Ricordo che gli esempi che abbiamo portato in trasmissione sono il Festival di Danza Urbana, la Giornata Mondiale della Danza e la Parata Partot, che tutti alla fine, seppur con strumenti diversi, vanno ad agire nella direzione del recupero di socialità nello spazio urbano. Allora, intanto buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei per essere qui. Allora, la posizione dell'amministrazione è molto chiara, nel senso noi siamo molto favorevoli a iniziative di questo tipo che da tanti anni si svolgono nel nostro territorio, iniziative che in vari modi coinvolgono i cittadini, questa è la parte più importante, mettono al centro le persone e la loro vita quotidiana. Penso alla Parata Partot che per esempio, oltre ad essere una parata, appunto, un laboratorio urbano che è sociale, che dura tutto l'anno con il coinvolgimento dei quartieri in tante forme, insomma, artistiche e culturali. Quindi credo che Bologna sia un po' questo, il mettere insieme la vita sociale, le relazioni e riuscire da questo a trarre anche una parte artistica e creativa. Grazie. Ma da un punto di vista un pochino più specifico, mi chiedevo quali potessero essere le aspettative delle istituzioni nei confronti di questi eventi culturali ed artistici, nel senso qual è l'opportunità che offrono specificamente al territorio urbano e ai suoi abitanti, cioè perché scegliere e promuovere alcune cose piuttosto che altre? Sì, i laboratori della Partot, cioè, insomma, effettivamente c'è tantissima attività. Mi chiedevo, avrei voluto dalla sua voce sentire proprio quali sono le aspettative dell'istituzione. Ma intanto è importante sapere quali sono le aspettative dei cittadini, credo, perché Bologna, per come è fatta, a numerosi eventi, progetti e cose che crescono dal basso, o dei cittadini o degli studenti o dalle realtà creative che vivono o passano dalla nostra città. Quindi credo che l'identità di Bologna in fondo si concretizzi molto in questo. Noi non sapremo mai cosa sarà Bologna un anno per l'altro, perché le dinamiche che, anche sociali e creative che sono nella nostra città, cambiano in continuazione. La nostra è una città che ogni 10 anni cambia la propria popolazione per il 50% per l'immigrazione che c'è, gli studenti, le persone che vengono a lavorare. Quindi è una città creativa per eccellenza. Le aspettative che come amministrazione abbiamo è che questo fermento possa continuamente rimanere in piedi, esserci e riempire sia le strade che i luoghi della città. In particolare io, come con la delega al marketing urbano, sto lavorando insieme agli altri assessori sulla valorizzazione dello spazio pubblico, e quindi per noi l'idea di città non è come, insomma, un'idea di città simile a quella di Treviso, con le panchine vuote e le piazze semplicemente considerate come arredo urbano, ma quella della vita sociale che riempie la città e la rende diversa e unica rispetto alle altre. Ed infatti devo sottolineare il fatto della nostra fortuna, perché Bologna è la nostra città, è estremamente fortunata in questo senso. Il settore cultura... Lo è meno dal punto di vista della pulizia, perché comunque lo spazio pubblico è importante che sia vivo, ma va anche curato, e di sicuro Bologna è una città sporca, quindi da questo punto di vista... è l'altro difetto. Beh, da questo punto di vista devo dirle che tramite la parte di studio che ho chiamato interviste perifatetiche del programma che andrà in onda da lunedì 17 ottobre, devo dire che abbiamo raccolto diversi punti di riflessione che potrebbero stimolare, anche tramite proprio la realizzazione di eventi site specific nei vari quartieri, una sensibilità, perché alla fine questa cosa della sporcizia ha molto a che vedere anche con l'educazione, e l'educazione ha a che vedere con il background da cui si proviene. Sono diversi tipi di canali che vanno assestandosi e devono aggiungere ad armonia. Ad esempio, una cosa che si è notata specialmente nel circondario della Cirenaica, mi hanno fatto notare, oppure anche nel Navile, il fatto che forse per la raccolta differenziata si potrebbero scrivere sui cassonetti messaggi e indicazioni nelle diverse lingue e idiomi che, insomma, attualmente abitano la nostra città. Però questo poi lo discuteremo, non voglio togliere spazio a quelle che saranno le contenute e le puntate che verranno ad essere. Ritornando invece a noi, mi interessava la questione del continuo cambiamento e assestamento, anche perché in effetti gli esempi che ho portato all'attenzione in questa puntata realizzano un po' di problemi di dialogo con gli assetti burocratici. Infatti, proprio perché si declinano in forme spettacolari nuove, probabilmente richiedono anche forme nuove di dialogo, forzano un po' quello che è l'assetto della struttura burocratica per la realizzazione di eventi. E da questo punto di vista volevo chiederle in quali passi si potrebbero compiere per colmare la distanza tra le formule burocratiche e le nuove formule di manifestazione artistica. Ma se l'obiettivo è quello di prima, cioè valorizzare quello che cresce dal basso nella città, è chiaro che la burocrazia deve essere al servizio degli obiettivi che un'amministrazione si vuole dare, in generale la comunità si vuole dare. Quindi ci devono essere regole certamente per la cura e la gestione degli spazi, ma è molto importante, io credo, un lavoro che stiamo cercando di fare sul coordinamento degli eventi, proprio perché Bologna ha un numero altissimo di appuntamenti, di proposte. Il problema è la qualità di quello che c'è e il fatto che queste iniziative riescono fra di loro a collaborare o non a sovrapporsi, e soprattutto riescono ad esprimere il loro potenziale. Quindi io credo che un'amministrazione, piuttosto che inventarsi grandi eventi, abbia la necessità, il dovere di coordinare e di mettere la città a disposizione, ma nel modo migliore. Quindi non tutto si può fare, quello che si sceglie di fare deve essere reso fruibile al meglio. Noi stiamo cercando di creare un ufficio apposito che si lavori sul coordinamento degli eventi e lo legheremo a due obiettivi. Uno è quello della valorizzazione dello spazio pubblico, come dicevo prima, e l'altro è quello del marketing più in generale internazionale della città. E quindi caratterizzare Bologna per un'agenda di eventi che già esistono in gran parte, che si svolgono durante tutto l'anno e che devono essere pensati sia da un punto di vista logistico dei luoghi, sia dal punto di vista della promozione per tempo e non una settimana prima, come spesso succede nella nostra città. Quindi c'è un fermento, c'è una creatività, va incanalata nelle direzioni giuste se vogliamo che ci sia una valorizzazione. Grazie. E adesso un'ultima domanda che si avvicina un pochino più nello specifico a quelli che sono i temi che poi tratteremo nella prossima settimana, perché Appunti Periferici nasce anche dalle considerazioni che proprio nei quartieri fuori porta, nelle periferie, stiamo avendo i primi passi, anche se in realtà ormai è da un bel po' di anni che accade, la nuova società contemporanea, una società composita in cui i differenti background culturali sono oggi allo stato di ricchezza potenziale. Si ritiene che uno dei modi per attivare un cambiamento da un assetto multiculturale ad uno interculturale sia quello di offrire appunto occasioni per far sì che vengano a crearsi memorie condivise legate al territorio. Ed ecco allora l'indagine sugli eventi in site specific. A questo punto mi piacerebbe che lei potesse regalarci qualche considerazione a riguardo. Ha mai vissuto in un quartiere fuori porta? Ne conosce qualcuno in maniera particolare? Le domande che poi ho fatto alle persone che ho intervistato hanno a che vedere con quello che è magari un luogo preferito, piuttosto che se si è avuto una percezione del cambiamento, e devo dire che ho incontrato molte persone che mi hanno suggerito il fatto che ci sia stato un cambiamento in positivo. Bellissimo, una volta un tavolo che simultaneamente due persone mi hanno detto no è tutto peggio, e l'altro no è andato, è molto meglio. E invece vuole raccontarci qualcosa lei? Poi la lascio andare, lo prometto. Okay. No, ma posso rimanere 5 minuti. Allora, io vivo sul confine fra San Lazzaro e Bologna, quindi non so se può essere considerato periferia. Lo è dal punto di vista della lontananza del centro storico, lo è meno per le persone che ci abitano, nel senso che il loro centro è quello spazio, quindi il quartiere Savena, nel mio caso. Un'ora fa ero al quartiere Navile, vicino a Villa Angeletti, dove abbiamo appena inaugurato un giardino che si chiama Giardino Marinai d'Italia, dove un'associazione Terra Verde ha completato un percorso di una scuola cantiere con inserimento lavorativo di 17 ragazzi, realizzando opere di arredo urbano stile Gaudì come Barcellona. Ecco, quello è un progetto molto interessante, che però parla di una comunità che completamente lontana da quello che si legge sui giornali o quello che si vede nel centro storico, è in realtà la vera Bologna per la maggior parte dei cittadini. Quindi devo dire che la rappresentazione della realtà che spesso c'è sui media è completamente lontana dalla maggior parte della percezione delle persone. Non è un caso che spesso le elezioni le vince chi non sta sui giornali nella nostra città e in realtà ha più un radicamento popolare, per fare un esempio, o che le cose più interessanti a livello di pubblico, di numeri, nella nostra città sono proprio quelle che solitamente sono lontane dalla ribalta mediatica e sono più popolari e vissute dai cittadini. Quindi io credo molto in un modo di, almeno nel fare il mio lavoro, che è più popolare, che è semplice, che elitario. Cioè questo approccio lo credo molto. Credo che sia vero, e credo che in questi anni Bologna sia molto cambiata, certamente, anche se, come dicevo prima, una città che cambia ogni 10 anni per il 50% è una città che è sempre cambiata per storia. Si vedono persone, facce nuove, si sono sempre viste, perché in realtà Bologna è sempre stata una società contemporanea, per come la si considera oggi, è sempre stata in trasformazione. Il problema è che qual è il punto di vista? Se il punto di vista di chi osserva è semplicemente quello di chi guarda il centro storico, beh, Bologna sì, è sempre stata una città medievale e oggi ci sono degli strani personaggi che la abitano. Se uno invece guarda un po' più dall'alto Bologna e la vede nelle sue trasformazioni, io credo che si accorgerà di tantissime cose. L'altro giorno, ad esempio, eravamo alla John Hopkins con il sindaco a incontrare gli studenti. Si è alzato uno studente americano e ha chiesto come mai Bologna non è una città verde, non c'è neanche un giardino o un parco. Lui probabilmente non era mai uscito dalle mura del centro storico. In realtà Bologna è una delle città più verdi d'Europa. Fra le colline che sono tutelate, i parchi pubblici che ci sono chilometri quadrati di verde. Il problema è sempre da che punto la si guarda e quale realtà si vive. E in effetti io ho avuto questa bellissima sorpresa nella mia indagine condotta quest'estate nelle periferie, che effettivamente ci sono parchi ovunque al di fuori. E inoltre, insomma, colgo l'occasione per... di nuovo per... aveva detto un'altra cosa, adesso mi sfugge, ma comunque a questo punto io credo che sia mio dovere salutarla, perché è già stato tanto gentile ad essere qui e immagino che la sua giornata sia veramente ancora lunga. Un'ultima cosa però, le dobbiamo strappare un fare? Prossimo intervento perché una nostra collega, Katia, con il suo programma. Vuoi un attimo raccontarci il titolo, di cosa, giusto veloce, anche perché, certo. Per invitare direttamente... Certo, ciao. Allora, io sono Katia Baraldi, il mio programma, progetto è Gnoti a Prodi e discuterà, si vorrà discutere con varie personalità della trasformazione di Bologna e su dove sta andando Bologna, su possibili futuri di Bologna e anche gli scarti di Bologna. Mi invito è rivolto a varie a persone che provengono dal mondo della sociologia, da persone che collaborano anche con antropologi o scrittori, ad esempio farà parte del mio progetto anche Gianluca Morozzi. Ci sarà appunto uno studio di architettura che si chiama Rizoma, che si occupa di architettura partecipativa e del rapporto tra architettura e trasformazione sociale. E non mi dispiacerebbe avere anche lei, questo le faccio il mio invito formale a una delle mie date. Perfetto. Posto. Grazie mille per la partecipazione. Grazie a voi e complimenti. L'aspettiamo di nuovo qui la settimana prossima con Cati, allora. Va bene. E invece adesso recupero il tempo di prima per i ringraziamenti e i saluti. Tra l'altro abbiamo avuto l'occasione di avere un altro qui, un altro pezzo di Bolognois che adesso sta prendendo un attimo il microfono. Si sente? È collegato? Ciao a tutti. Ah, io non lo sento. Adesso? Allora adesso deve... così? Cos'ha? Ecco cos'ha. Si tratta di Federico Mascagni che per Bolognois si occupa di? Allora, dunque... Beh, il progetto Bolognois è molto particolare perché nasce, in realtà i ruoli sono ruoli assolutamente intercambiabili fra di noi, per cui io ho, diciamo, più attenzione verso il discorso della comunicazione, ma credo che comunque come gruppo siamo sostanzialmente molto coeso. Io, Riccardo e Salvatore. Sì, mi permetto un attimo perché Salvatore Arangio non può essere qui perché, che fra l'altro è questa lui, sì. la persona che l'artista che produrrà i contenuti per le prossime trasmissioni che andranno in onda da lunedì 17, come fantastico, lo dovete sapere. Sì, no, lo sappiamo, infatti dicevo fantastico, sottolineavo la cosa straordinaria. Lui purtroppo non è qui con noi perché fra l'altro, a parte che è molto impegnato, ma oggi in particolare si trova a... Stasera sarà nello spazio del Teatrino Clandestino, appunto per questo evento dove eseguirà in quartetto alcune musiche che vanno sostanzialmente dal periodo degli anni 60 agli anni 80 di grandi compositori della musica elettronica e saranno coinvolte fra l'altro in questa serata anche delle performance di Fiorenza Menni di Teatrino Clandestino, poi ci sarà Katrin Andersen, se ricordo bene. Karin Andersen, scusate, che poi fra l'altro conosco bene, quindi saluto, casomai fosse all'ascolto, sì, chi lo infatti sa. Colgo anch'io l'occasione per salutare Fiorenza e il Sì, che in effetti che hanno creato questa serata d'eventi, perché proprio mentre inaugura la nostra piattaforma mobile di Aelia Media, da qualche isolato da qui, anzi un isolato, in realtà un giro di vie, esatto. C'è anche l'inaugurazione dello spazio SI, l'atelier, via San Vitale. Esatto, la porta gialla adesso, vero? È la porta gialla, subito dopo quello che era una volta il Teatro San Leonardo, che è ancora poi in realtà il Teatro San Leonardo. Comunque, insomma, sono lì. E cosa dire? Come dicevo, siamo sostanzialmente in tre, ma io credo che Bolognoise sia una moltitudine, nel senso che chi può partecipare a Bolognoise, detto Bolognoiser, è sostanzialmente tutta la cittadinanza. E sicuramente sarò una Bolognoiser anch'io, perché appena avrò un po' di tempo caricherò tutti gli ambienti sonori che ho raccolto nella mia indagine in questi due mesi. Ah, bene, perfetto. Va bene, ti ringrazio ancora per essere stato qui, colgo l'occasione per fare un po' di ringraziamenti e poi ripasso dopo un breve stacco musicale in cui vi riproporrò i nostri commenti. Il nostro Gainsbourg con Se New York, e per poi ritornare alla conduzione di Marianna. Allora, io devo ringraziare assolutamente Manuel Manny Valentini e Anton Ashloff, poi il dottor Antonio Tormina, il Centro Interculturale Zonarelli e il Centro Internazionale dell'Infanzia Loris Maraguzzi per gli spunti dialogici che mi ha offerto alla base della realizzazione di questo programma. Ringrazio inoltre tutto lo staff organizzativo alle spalle di Alia Media, la Rete Art Project, la Pillola, Goodwill e anche le radio, ma soprattutto le radio. Infatti, alla conduzione delle puntate che seguiranno ci saranno dei professionisti chiamati da ciascuna delle tre radio partner del progetto di Pablo El Guera, ovvero Radio Città del Capo, Radio Fujiko e Radio Kairos. E io adesso ho perso, ringrazio anche ovviamente tutti i producer, tutti gli ospiti e gli intervistati e gli amici che mi hanno sostenuto in questa epopea periferica. E vi lascio con un ascolto e poi ritornerà la voce di Marianna Mendoza, scusatemi, correzione al... J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai vu New York, New York USA. J'ai jamais rien vu d'eau, j'ai jamais rien vu d'aussi haut. C'est haut New York, New York USA. Empire State Building, oh c'est haut. Rockefeller Center, oh c'est haut. International Building, oh c'est haut. Waldorf Astoria, oh c'est haut. Pan American Building, oh c'est haut. Bank of Manhattan, Building, oh, c'est haut. Americana Hotel, oh, c'est haut. CBS Building, oh, c'est haut. RCA Building, oh, c'est haut. First National City Bank, oh, ciao Bologna.

della giornata romana, appoggiandosi a siti come globalproject.info, Radio Onda d'Urto, quindi in realtà di movimento padovane, romane. E insomma, qua alcune, la cronaca comincia alle 11:15. Partiamo con una breve lettura dei fatti così come ce li hanno trasmessi. Dunque, alle 13:30 è partito il corteo degli indignati, che tra parentesi, visto come è andata la giornata, si potrebbero dire più incazzati. I manifestanti diretti a Piazza San Giovanni imbracciano un grande striscione con su scritto People of Europe Rise Up. Ricordiamo che non è una manifestazione nazionale ma mondiale. Nel frattempo lo spezzone degli studenti hanno raggiunto il resto del corteo, e questo fino alle 13:30. Alle 14:23 alcuni manifestanti stanno bruciando le bandiere dell'Italia e dell'Unione Europea che sventolano sul tetto di un hotel, mentre il corteo degli indignati sfila per via Cavour a Roma. In questo momento blitz in via Cavour da parte di un gruppo di manifestanti sanzionato il supermercato Elite, sulle cui vetrine sono comparse scritte No Banks. Sempre in via Cavour sono state sfondate le vetrine di due banche e una macchina è stata data alle fiamme. Uno spezzone del cartello dell'insolvenza precaria si trova nei pressi dei Fori Imperiali. Alle ore 15 di oggi la testa del corteo è arrivata ai Fori Imperiali, migliaia di persone ancora in via Cavour. Ore 15:30, il corteo riprende a muoversi e lo spezzone degli studenti è appena entrato in via Cavour. Poco prima delle 4, la testa del corteo degli indignati, partito due ore prima da Piazza della Repubblica, è arrivato in Piazza San Giovanni. Alle 16:20 è stato assaltato un edificio della Guardia di Finanza, in precedenza era stato distrutto un edificio dell'agenzia Manpower per il lavoro. Momenti di tensione interna tra gli appartenenti ai Cobas e alcuni incappucciati rapidamente superati che hanno creato attimi di disorientamento. Subito dopo è arrivata la polizia in via Manzoni che ha rotto la manifestazione in due tronconi. Ore 16:22, la polizia è arrivata da una via laterale spezza in due il corteo in via Manzoni. 16:26, fronteggiamento tra polizia e manifestanti in viale Manzoni. Ore 16:29, lancio di lacrimogeni, ma i manifestanti li ritirano indietro. Ore 16:30, la polizia si organizza in plotone dietro ai blindati e avanza verso il corteo. I manifestanti lanciano bombe carta. Ore 16:40, in piazza San Giovanni centinaia di persone scappano perché improvvisamente sono arrivati in piazza i blindati della polizia, seminando il panico tra la gente che era seduta tranquillamente e hanno iniziato a disperderli con gli idranti. I blindati si sono poi ritirati verso via Filiberto, mentre i manifestanti stavano cercando di allestire delle barricate. Ore 17, aggiornamento da Piazza San Giovanni, dove su un lato della piazza continuano gli scontri tra manifestanti e polizia che hanno ancora azionato gli idranti e continuano a fare caraselli con i blindati. Ore 17:20, continuano gli scontri in Piazza San Giovanni con la polizia che con l'utilizzo di blindati continua a fare delle incursioni pericolosissime a velocità sostenuta, mettendo in serio pericolo i manifestanti. L'aria in piazza è irrespirabile a causa della pioggia battente di lacrimogeni. Dalla parte opposta della piazza si sono formati i cordoni dei compagni dei Cobas per mantenere la postazione. La guerriglia continua. Ore 17:30, continuano gli assalti della polizia e i caroselli dei blindati per sgomberare la piazza in un'atmosfera pregna di gas lacrimogeni che impediscono la visibilità. I caroselli sfiorano i manifestanti. Ore 17:32, proseguono gli scontri, la polizia non riesce a scendere i mezzi blindati, quindi continuano a fare pericolosi caroselli. Ci sono aggiunti nel frattempo anche i carabinieri. Ore 17:44, confermata la notizia che girava su Twitter, un ferito investito dai blindati. Ore 17:49, dopo più di un'ora di scontri la piazza resiste. Più volte ricacciata indietro la polizia, le corrispondenze da Roma parlano di tentativi ripetuti delle forze dell'ordine di sgomberare la piazza con i blindati, non fidandosi di caricare a piedi. Ore 17:50, non si fermano gli scontri in Piazza San Giovanni, che durano ormai da più di un'ora. Fitto lancio di lacrimogeni sulla folla. Nel frattempo anche lo spezzone degli studenti sta raggiungendo la piazza. Un ragazzo sarebbe stato investito da uno dei blindati, mentre un altro ragazzo sarebbe stato ferito alla testa. Ore 18:20, in Piazza San Giovanni è stato investito un ragazzo, adolescente, soccorso da un'ambulanza che si è rialzato seppur con una gamba dolorante. La polizia continua a lanciare lacrimogeni e manganellate a chi si trova davanti. Ore 18:23. Assaltati due blindati dei carabinieri dalla folla, uno dei due ha preso fuoco. Precedentemente vi erano state diverse cariche dalla polizia verso i manifestanti con le mani alzate. Ore 18:40. Una dozzina di blindati continua a lanciare lacrimogeni anche in direzione del punto di pronto soccorso, dove il corrispondente ha visto alcuni feriti. Ore 18:53, lo spezzone degli studenti sono fermi a piramide, scontri in via Merulana all'angolo con via Labicana dove proseguono gli scontri. Ore 19, da piazza San Giovanni i furgoni della polizia e i carabinieri stanno lasciando la piazza dirigendosi con cordoni e scudi verso altre zone. Ore 19:11, in via Merulana all'incrocio con via Labicana la polizia ha caricato con i blindati, qui resta concentrata la polizia. Beh, dopo questa cronaca che nel 1977 sarebbe stata impossibile perché ci sarebbero stati comunque parecchi centinaia di chilometri di distanza e pochi telefoni, ora grazie al web tutto è possibile leggerlo quasi in tempo reale. Sono le 19:58 minuti primi di sabato 15 ottobre 2011. Siete sul progetto Elia Media, ma il progetto Elia Media sarà poi riregistrato e riprodotto su altre frequenze come quella di Città Fujiko, di Città del Capo, di Kairos, e abbiamo letto semplicemente un report fatto da chi c'era, cosa che normalmente si sarebbe fatto per chi ha visto il film Radio Alice direttamente per eventi locali. In questo caso il nostro locale in piazza è diventato un locale romano grazie al web. E per concludere concludiamo appunto con un articolo preso addirittura dal Wall Street Journal, quindi qualcosa al di sopra di ogni sospetto di militanza politica. Di sicuro non sono militanti politici di base, ma diciamo hanno altri tipi di militanza. Comunque anche su Wall Street Journal c'è un articolo che parla di Roma e si intitola "I manifestanti trasformano Roma in violenza". Effettivamente, questo è quello che si vede anche da una bella immagine nell'articolo, e comunque anche il Wall Street Journal sottolinea come i politici italiani non siano stati in grado di affrontare il problema e gli scontri sono esplosi. Un po' una cronaca molto simile l'aveva fatta nei passati mesi per quanto riguardava la Grecia. Con questo direi di chiudere le trasmissioni, ci risentiamo domani alle 16, sempre in streaming, sempre in diretta e magari anche in diretta da Radio Kairos, se tutto va come deve andare. Abbiamo qualcuno che vuole intervenire per commentare le informazioni che abbiamo dato. Ciao, grazie, sono un passante e vi ascoltavo, complimenti per l'iniziativa, però in realtà rispetto alla vostra ricostruzione io ho visto qualcos'altro, cioè ho avuto messaggi da persone che erano lì e in più ho seguito la diretta su Rai News che in modo assolutamente oggettivo riprendeva le scene e si vedeva tutto a una risoluzione alta, quindi gli eventi erano praticamente visibili in qualunque mossa, sembrava una partita di scacchi e chi era sotto scacco era la polizia, assolutamente, le forze dell'ordine, e c'erano questi ragazzi Black Blocs che era evidente che erano loro che scatenavano la violenza. E nel vostro resoconto sembra quasi che le forze dell'ordine abbiano aizzato la folla, ma non è questo che io ho visto, e soprattutto secondo me un errore è stato delle forze dell'ordine di non essere intervenuti in modo deciso per prendere queste persone e portarle via dalla piazza e far continuare la manifestazione. Secondo me è stato un disastro questa manifestazione, favorirà questo governo purtroppo. Cioè, io ho molti amici che erano lì, è stata veramente una sconfitta per tutte le persone moderate che erano andate lì per dare un segnale, è un peccato, e assolutamente le forze dell'ordine si sono comportate bene, anzi hanno fatto molto poco, dovevano portare via quelle persone fin dai primi incendi delle due macchine in via, come si chiamava, Lubiana mi sembra, scusate l'intervento. No, non ti devi scusare, anzi grazie, d'altronde portare via gente non è come spostare pacchi. Comunque grazie per l'intervento, è sempre meglio sentire più voci. Comunque sono le 20:01 minuti primi e il 15 di ottobre, di mezzi di informazione ne avete migliaia, tantissimi altri, ben più autorevoli del nostro, potete comunque scegliere quello che volete. Buonasera a tutti. Lasciamo a domani. Lasciamo aperto il dibattito, ci troviamo domani alle 16, ricordo che alle 17 si parlerà ancora di quello che è accaduto oggi a Roma, nel resto d'Italia e nel resto del mondo, con Franco Berardi e Andrea Zanobetti. A domani.